Olive, ci siamo martedì prossimo. Martedì prossimo, sperando di esserci tutti. Stessa ora, ringraziamo tutti per la cortese attenzione e Walter per la regia. Buonasera a tutti. A presto.